C'è un altro ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Gabriella da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno Presidente, io intanto sono lusingata di poter parlare con lei così, con un contatto così diretto, non mi era mai successo ed era una cosa che sognavo da tempo. Quindi intanto le dico, la ringrazio di esistere, non è assolutamente retorica o essere patetici, ma perché una persona come lei, e la domanda che le faccio è, lei è un uomo che ha tantissima cultura, moralità, e che potrebbe, vista la sua posizione, dedicarsi a tantissime altre cose. Probabilmente non risolvere i problemi dell'Italia, che ora sono ben più grandi, però lo fa e lo fa molto bene, quindi la domanda è perché lo fa? È la stessa perché... che hanno fatto a Taormina, si ricorda? Sì, beh, intanto ringrazio la signora Gabriella. E le dico, se, dato che io spero qualche volta di essere in Sardegna, a Dolbia, a Porto Rotondo, se magari mi manda un biglietto, mi fa una telefonata, avrò piacere di invitarla almeno per un caffè, e quindi ci diamo appuntamento in Sardegna. L'altra cosa che le dico è che in effetti ha detto con parole sue quello che dice questa canzone che sta avendo così tanto successo: meno male che Silvio c'è, e che è veramente simpatica. Quindi molte molte grazie a lei e anche all'autore di questa canzone. In effetti è abbastanza facilmente immaginabile che anch'io mi domandi ripetutamente: ma chi me lo fa fare? Tra l'altro avevo un sogno che è rimasto nel cassetto, e quello, dopo essere stato imprenditore di successo e avere consegnato poi ai miei figli la conduzione, che è brillante, di ciò che ho fondato, avevo in mente di costruire una rete internazionale di ospedali per bambini, recandomi nei vari paesi, sollecitando anche le adesioni e gli apporti di tanti occidentali. Io pensavo di mettere una parte di ogni ospedale e poi di chiedere, con una raccolta pubblica, i fondi, che certamente sono sicuro sarebbero arrivati dalle persone generose che vivono nei paesi occidentali. Questo è un sogno che ancora ho, per ora è ancora un sogno nel cassetto. Invece, per quanto riguarda l'Italia, è perché in questo momento io credo che non ci sia un'altra possibilità per tenere insieme i partiti e gli elettori del centrodestra. Io ancora, in definitiva, non vengo ritenuto fungibile, e non lo dico io, ma lo dicono tutti coloro che insistono e hanno insistito perché io continuassi e mandassi avanti quello che è sempre stato un mio obiettivo, direi un mio sogno, lasciare in eredità al mio paese una grande, grande, grande forza che mettesse insieme tutti i moderati, i liberali, i laici, i cattolici, i riformisti del centrodestra, cioè tutti gli italiani, le donne, gli uomini che amano la libertà, che vogliono restare liberi e che non si riconoscono nella sinistra italiana. Ecco, questo è un traguardo praticamente raggiunto. Mi spiace che ci siano stati dei singoli leader politici che, per ambizione personale, per non so per quale anche motivo, è difficile, non ho ancora capito bene i motivi per cui qualcuno del centrodestra non sia stato attratto da questa grande idea, tra l'altro dando vita in Italia a una forza politica che è oltre il 40% e che rappresenta in Italia la grande famiglia della democrazia e della libertà, che è il Partito dei Popoli Europei in Europa.